Siete all'ascolto di Star Trek, viaggio nella storia della musica. Presenta Andrea, buon divertimento. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Teletrasporto attivato ed eccomi finalmente arrivato a bordo sul ponte dell'astronave Enterprise. 46 minuti primi dopo le ore 22 in diretta con voi su Spreaker Radio e anche su www.startrekonline.org c'è Andrea. Buona domenica a tutti, magari non so, siete a casa che state facendo zapping con il televisore, avete visto in TV, insomma c'è poco per questa domenica, allora magari avete letto su Twitter gli aggiornamenti del mio stato dove appunto vi segnalo l'esistenza di questa trasmissione che ha iniziato ad essere tale nel 1999 sulla mitica frequenza di Radio Inchiesta Vigevano 101.500 MHz. Poi purtroppo qualche anno fa Radio Inchiesta ha chiuso i battenti. E allora cosa è successo? Star Trek è stato riprodotto qua solo sul web, per adesso solo sul web, perché magari se ascoltando la trasmissione vi può piacere, non so, magari come si suol dire, fate passare la voce, fate il tantan mediatico sui social network e cercate magari a Star Trek una radio locale per insomma essere anche presente non solo sul web ma anche in FM. Io sono Andrea, vi do la buona serata, il buon ascolto e il buon divertimento e ora spieghiamo un pochino che cos'è questa trasmissione che ascoltate ogni tanto per l'appunto su Spreaker. Star Trek non è altro che un viaggio virtuale nella storia della musica. Il titolo è un omaggio a questo grandioso telefilm americano che ho voluto dare io, essendo un appassionato della serie classica di Star Trek, per essere precisi la serie, la mitica serie degli anni 60, 1968. Le serie successive, devo essere sincero, non mi attirano tanto, insomma non sono proprio appassionato, però la prima serie, quella classica, si può dire è la mia preferita. E voi cosa state facendo di bello? Innanzitutto in apertura saluto anche Marzia che ci ha scritto un'email, ci ha proposto una colonna sonora di un telefilm. Se volete farlo anche voi, che poi ovviamente ascolteremo più avanti, se volete contattarci potete farlo andando sul mio sito www.startrekonline.org, lì trovate la mail, oppure potete anche lasciare direttamente un messaggio sul sito, noi lo leggiamo ovviamente in onda se volete essere salutati. Marzia ci ha segnalato una colonna sonora di un glorioso telefilm americano, lo ascolteremo più avanti, ora però è proprio arrivato il momento di... Vabbè, qua c'è sempre qualcuno che ride alle mie spalle, è proprio arrivato il momento direi di ascoltarci la prima canzone qua, Star Trek, viaggio nella storia della musica. No, cos'è sta cosa? Teletrasporto. Quando sentite il teletrasporto vuol dire che c'è sempre qualcuno che ci viene a trovare. Chi è che è sbarcato a bordo dell'astronave Enterprise? Chi è che c'è? Chi è qua a bordo con noi? Allora, ciao, bella gioia! Eccolo qua, immaginavo, ovviamente ogni tanto vengono questi personaggi sul ponte dell'Enterprise e ci mandano un saluto. Questo era il Gandhi, il mitico Gandhi, Renato Pozzetto nei panni del Gandhi, un film molto bello, La patata bollente del 79. Noi ironizziamo molto su questi film americani e italiani anche gloriosi. Questo è un film italiano per l'appunto. Prima canzone che dedico a un mio carissimo amico. Ieri sera ci siamo visti dopo un anno, veramente è passato un anno, però purtroppo, sapete, nella vita ognuno ha i propri impegni. E questo mio caro amico è proprio un appassionato di musica house, è un discotecaro perché ama le discoteche. Insieme abbiamo condiviso dei bellissimi momenti, insomma, da fine anni 90 sino all'incirca il 2006, girovagando insomma per le disco del nord Italia. Il primo pezzo lo dedico a te ed è Cassius, 1999 il titolo della canzone. Siete saldamente a bordo di Star Trek, al microfono sempre Andrea. Musica house di qualità questa sera, arriva Cassius. Ciao bella gioia! Brani veramente stupendi di musica dance, si torna indietro nel tempo. Immaginate insomma le puntate dell'Enterprise, dove capitava spesso in qualche puntata che l'astronave insomma tornava indietro negli anni. Esatto, col teletrasporto si tornava indietro negli anni, e così è capitato proprio in apertura di Star Trek, Viaggio nella storia e nella musica. Un saluto quindi a questo mio carissimo amico. Primo disco ovviamente sempre dedicato a te, doverosa la cosa, direi. E insieme a Cassius ricordiamo alcune discoteche mitiche, ne abbiamo parlato anche ieri sera. La discoteca XO di Cappella Cantone Cremona, Poi ancora lo Scaccomatto di Fiorenzuola d'Arda, il Pierrot di Sarmato, sempre in provincia di Piacenza. Se anche voi avete delle discoteche del cuore che hanno chiuso, le possiamo ricordare insieme, magari ci citate il nome. E con molto piacere io lo cito, e magari possiamo anche, potete anche raccontarci insomma le vostre esperienze ascoltando queste canzoni. Quindi in apertura di Star Trek quasi sempre ascolteremo un brano di musica house principalmente, e poi insomma il palinsesto della trasmissione è strutturato con canzoni varie che possono essere, non so, brani di disco music, musica italiana, musica pop, musica rock, eccetera eccetera eccetera. Tra poco leggeremo per l'appunto la mail di Marzia, molto breve, che ci chiedeva la colonna sonora di un telefilm americano. Per ora facciamo una piccola pausa perché dobbiamo mandare in onda uno spot molto importante che riguarda principalmente la sicurezza sulle strade, in particolare la cintura di sicurezza. Mi raccomando, allacciatela sempre ragazzi e ragazze quando siete in giro, perché vi può salvare la vita, come viene detto per l'appunto in questo spot. Dai Mandraghe! E la cintura? Non ce l'ho. È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio. L'ho detta bene. Stop! Ora! E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene? Esatto, questo era uno spot con il mitico Proietti, che riprendeva uno sketch memorabile del film Febbre da cavallo, quando si travestiva per l'appunto di agente proprio comunale, da vigile. L'abbiamo passato, ricordate che la sicurezza stradale è molto importante, dipende da voi, principalmente mettervi al sicuro e poi anche rendere sicure le persone che vi circondano, quindi addosso la cintura alla grande. Non bevete, ovviamente non assumete droghe quando guidate, perché come si suol dire è un attimo fare un incidente, magari voi vi salvate però muoiono persone innocenti. Questo spot lo passeremo spesso insieme anche a quello della donazione del sangue dagli amici dell'Avis. Ecco, ora introduciamo proprio la colonna sonora di questo telefilm che Marzia ci ha richiesto tramite email. Potete farlo anche voi, potete scriverci visitando il sito www.startrekonline.org. Lì trovate la nostra mail, potete scriverci e lasciarci, non so, considerazioni, commenti e anche richiedere canzoni. L'email di Marzia la leggiamo velocemente. Ci dice così: ciao Andrea, sono Marzia da Torino. Questa sera casualmente su Spreaker ho ascoltato la tua trasmissione. Molto bella la canzone che hai proposto di Corrado e anche i tuoi speciali dedicati a Ugo Tognazzi. Però mi chiedevo se non era possibile parlare anche del telefilm americano del 1900 e lei ha scritto 78. Mi pare che fosse forse degli anni 80, beh comunque uguale. Del telefilm del 1978 Love Boat. Ti ringrazio e complimenti per la trasmissione molto carina e simpatica, Marzia da Torino. Oh, va bene Marzia, io ti ringrazio per aver scritto a Star Trek e anzi ne parliamo subito di Love Boat, un telefilm molto bello, perché poi abbiamo citato anche nelle scorse puntate anche proprio di telefilm e anche di film. Lei ci chiedeva di parlare di Love Boat, lo facciamo subito. Love Boat è una serie televisiva statunitense ambientata su una nave da crociera prodotta tra il 1977 no, aveva ragione lei, e il 1987. In Italia la serie è andata in onda dal 1 gennaio del 1980 su Canale 5. La serie si svolge usualmente sulla nave Pacific Prince, i cui passeggeri e l'equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti. In alcune puntate furono usate altre navi. La particolarità di questa serie televisiva è costituita dal fatto che il cast dei passeggeri, che cambiava di puntata in puntata, era costituito per la maggior parte da attori molto conosciuti negli Stati Uniti. I personaggi fissi invece non variavano mai, erano sempre gli stessi. Un altro aspetto peculiare di Love Boat era il suo formato di scrittura. La puntata era divisa in segmenti differenti e ogni segmento veniva scritto da un gruppo differente di autori che lavorava sul proprio gruppo di attori e sulla propria storia. Bene, ora noi ascoltiamo una delle tante colonne sonore di questo glorioso telefilm americano anni 70, anni 80, che sono riuscito a reperire proprio sul web.